chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane di Rosita Celentano e Angelo Vaira. Che meraviglia! Cosa arrivi? Perché tu, ma questa musichetta mette felicità in assoluto. Chiedimi se sono felice, il mondo dalla prospettiva del cane. Okay. Buongiorno con Angelo Vaira e Rosetta Celentano. Noi vi condurremo, passeggeremo per mano, faremo questo lungo viaggio parlando del rapporto fra uomo e animale, soprattutto del rapporto di noi uomini con i cani. Con i cani, ma anche con i gatti, i cervi, le zebre e tutti gli altri animali, tutti i mammiferi sociali, uomo compreso, perché l'uomo è un animale sociale. Allora, sì, è il peggiore. Il peggiore, dici? Secondo me è il peggiore, no, secondo, di tutta la specie. A volte sì, a volte no. Comunque, a parte questo, insomma, ci si chiede a volte, no? Questa cosa qua di quando uno viene lasciato, ossessionato dalla paura di perdere il proprio uomo. C'è un articolo su Vanity Fair. O anche la propria donna, eh? O anche la propria donna, ecco. Vabbè, ma non è il mio caso, ovviamente. Quindi, no, scherzo. No, a parte questo, quindi, dipendenza affettiva, no? I cani soffrono a volte di dipendenza affettiva. Assolutamente sì. Ora, questo articolo su Vanity Fair è dedicato alle donne, ma ci sono dei paralleli, vogliamo commentarlo? Ah, okay. Io e te. Va bene, dici, vediamo. Il titolo è 10 segnali che sei dipendente da lui. Parto con il primo segnale? Qual è? Sei ossessionato dalla paura di perderla. Vedi? Ma di perderlo c'è scritto sull'articolo. Ho capito, ma io sono donna e ti dico di perderlo. Sto parlando con te di perderla. Va bene, quindi se pensi al futuro ti prende l'angoscia la sola idea di perderlo, no? Se sei una donna, se sei un uomo ovviamente è il contrario. Bene, questa cosa potrebbe esserci anche negli animali. Tra poco ci torniamo. Poi, secondo punto, sei felice solo se sei con lui. Sì. Capito? Non ricordati questa. Terzo punto. Cerchi di conquistarlo con il sesso. Ecco, cioè, voglio dire, ti rendi conto? Cioè, no. Basta. Cioè, però, guarda, che siete voi che siete spiccioli, voi uomini, perché effettivamente io ho avuto esperienze di amici che mi raccontavano che erano. Non sapevano perché stavano con una donna, ma questa era così talmente brava, coinvolgente, ma è vero, che li conquistava con il sesso, cioè non soltanto li conquistava, ma li manteneva poi con i rapporti. Sì. Okay. Poi. Ecco, c'è un appunto però su questo articolo di Vanity Fair che è interessante. Dice: anche se non ne hai voglia e hai mal di testa per davvero, fai sesso con lui pur di non perderlo. Quindi questo è il segnale che sei raro caso. Dipendente affettivo. Perché vedi, dobbiamo cominciare ad entrare nel mood qua, perché la dipendenza affettiva è una cosa che ti divora l'anima, ti divora dentro. Sì, certo. Questo che succede ai cani a volte quando vengono lasciati a casa e a causa di dipendenza affettiva te la distruggono. Però bisogna anche capire come cercare di non avere, adesso sia fra uomini che nel rapporto uomo-cane, bisogna capire come la dipendenza affettiva non diventi qualcosa di negativo, ma che sia invece un rapporto piacevole e costruttivo. E non è dipendenza a quel punto. Sì, non è un rapporto di dipendenza, potrebbe essere un rapporto di interdipendenza, se vogliamo. Senti, andiamo veloci con gli altri punti. Allora, il quarto punto è: spendi soldi solo per lui. Quindi. Ecco, vedi? Fare un regalo ogni tanto è più che normale, ma se invece rinunci a comprare qualcosa per te e spendi soldi soltanto per lui, potresti aver messo te stessa in secondo piano. E quindi un altro segnale che sei dipendente emotivamente, affettivamente. Sei gelosa dei suoi amici. Se passa una serata con gli amici. Più che amici delle amiche, casomai. Ecco, vabbè, quello è già più normale, no? Però dici, invece di stare con gli amici potrebbe stare con me, non hai voglia, no? di avere queste persone tra i piedi, perché vuoi passare tutto il tuo tempo con lui, no? Anche questo è qualcosa che... Sai quante volte ai cani capita anche di dire non voglio le altre persone, no? Attorno, voglio stare soltanto con questa qui e non do confidenza a nessun altro. Poi ti senti in colpa, fa qualcosa senza di lui. Beh, come la vedi? Ti è mai capitato? A fare qualcosa senza il mio fidanzato? Ah. No, più che non è no, sentirmi in colpa, una serata con gli amici, mi sento in colpa. No, mi sento in colpa, no, però mi sarebbe piaciuto ci fosse anche lui a condividere con me questa serata, ma non un senso di colpa. Non sei dipendente effettivamente, purtroppo. No, che purtroppo, meno male, no, sono per me Sara, purtroppo, scusami. Cioè, insomma, per me è meglio che tu sia dipendente. Pensi in continuazione che lui possa avere un'altra? Assolutamente no, non è il mio caso. Non è il tuo caso, ti senti insicura, nella tua testa frulla senza sosta l'idea che lui possa avere un'altra. No, vabbè. Però insomma è un segnale che una deve dire ai ai ai. Ottavo punto, il suo punto di vista è l'unico che conta. Quando si è innamorati, tutto quello che fa l'amato o dice è interessante e sorprendente, ultima parola pronunciata. Insomma, com'è? Sì, però dipende un po' dall'età. Adesso poi negli ultimi passaggi mi sono persa un pochino nel rapporto col cane. Però tu dici funziona anche in questo caso. Beh, poi lo vediamo, insomma, col cane. Poi punto 9, lo coinvolgi in tutto ciò che fai, cioè non puoi fare nulla senza di lui. Ma assolutamente no, ci sono delle cose invece che è giusto che ognuno faccia per conto suo. Tipo. Andare in bagno. Ecco, per esempio, vabbè, ok. Scusa, non so, non è che possiamo fare tutto quanto assieme. E poi vivi solo in funzione sua, no, sbagliatissimo. Però io purtroppo qualcuna di queste dipendenze ce le ho. Ecco, vedi, purtroppo per fortuna. No, allora, da una parte mi piacciono, però mi rendo conto che sono un pochino una costrizione, cioè a volte poi dopo uno non le vive bene. Ma il fatto è che quando questa cosa, appunto, dicevamo prima, ti divora dentro, non ti fa più star bene, no? E quindi è importante che una persona abbia una sua solidità, no? Alla base. E come si fa a capire quando c'è dipendenza fra un cane e il suo compagno, una persona? Ma non so se mi hai sentito parlare dei problemi da separazione. Sì. Cioè, va molto questa cosa qua. Cioè, il cane distrugge casa quando tu non ci sì. sei, ulula, fa pipì, perde salivazione, distrugge i divani oppure gratta vicino alla porta, e uno dice subito ansia da separazione. Anzi, te lo dico subito, ci abbiamo già delle mail, fra l'altro a proposito vi devo dare l'indirizzo mail, perché così ci potete mandare le vostre mail, le vostre sms, potete telefonare, insomma, e potete farci le vostre domande. Il nostro indirizzo è chiedimi se sono felice @radio24.it, perché così appunto parleremo con voi. Qualcuno è già arrivata. Ecco, ora l'ansia della separazione è soltanto uno dei motivi per cui un cane distrugge, non lo fa sempre, cioè, non è soltanto questo il motivo, potrebbe essere anche noia, frustrazione o addirittura un disturbo competitivo, insomma ci sono diverse cose. Però la cosa più importante qui da capire è che il cervello del cane è esattamente come il nostro per dal punto di vista emotivo, c'è un sistema limbico, per esempio si chiama così, il cervello affettivo emotivo, che rende il cane un essere vivente che è in grado di soffrire e gioire esattamente come noi. Di essere felice, di essere stressato, di essere stanco, di essere triste. Esattamente. Quindi la prima cosa che uno deve fare è che non deve pensare al dispetto. Sai, il cane ha fatto pipì, mi ha distrutto casa, è dispettoso. No, a volte i cani stanno malissimo in quelle condizioni, come malissimo. Ma davvero male stanno i cani che vengono abbandonati. Che questo è un capitolo che tra poco apriremo. Esattamente come quando noi soffriamo che veniamo lasciati o abbandonati dal compagno o dalla compagna. Infatti, si può fare un paragone. Si può fare un paragone con questa cosa quando il cane viene lasciato solo e soffre di persistenza all'attaccamento primario. Si tratta. Cioè, traducilo, perché voglio dire, io sono un po'. Il cane sta male se non è vicino alla sua figura di riferimento, ma sta proprio male. Quindi quando distrugge casa e che proprio non riesce a fare altrimenti rispetto a questa figura. Un'altra cosa che ci può essere l'iperattaccamento secondario. Cosa vuol dire? Che il cane ha paura di tutto tranne se c'è qualcuno che ha un suo riferimento vicino a lui, perché questa persona ha la possibilità di mediare, cioè avviene uno stimolo, qualcosa che lo preoccupa, con la presenza di questa persona si tranquillizza, senza non riesce a elaborare. Allora, con queste pillole di saggezza, poi avremo delle altre pillole durante il programma, ecco, adesso facciamo un attimo di pausa. Non mollateci, perché vi spiegheremo bene, veramente entreremo veramente nella mente di un cane. Chiedimi se sono felice, il mondo dalla prospettiva del cane. E sempre chiedimi se sono felice, il mondo dalla prospettiva del cane. Allora, stavamo parlando, ahimè, di abbandoni. Chiediamo di un cane se è felice. Esatto, e facciamo anche dei confronti sulle emozioni che proviamo noi nell'abbandono, essere lasciati da un compagno, da una campagna. Sì, perché sai, io penso che alla base dell'abbandono ci sia, a parte l'indifferenza, ma la convinzione per niente vera che il cane non possa soffrire, che il cane non provi emozioni, perché molte persone pensano, tanto un animale non prova emozioni. Esatto. In realtà non è così. Non è assolutamente vero, ed è stato anche provato. Non è che sono, come si dice, leggende metropolitane queste, realmente hanno un cervello. Immagina che già nell'Ottocento Darwin scriveva l'espressione delle emozioni negli animali. Gli animali e nell'uomo era il titolo del suo libro. Ma poi oggi abbiamo una scansione del cervello degli animali, sappiamo come è fatto, è tripartito esattamente come il nostro, quindi abbiamo una neocorteccia per cui il cane pensa, e un sistema limbico per cui il cane sente, si emoziona esattamente come noi, cioè crea legami, fa una sacca di cose. Ma che poi banalmente, io da quando ti conosco e sento parlare tanto di queste cose, quindi sto facendo, come si dice, delle lezioni accelerate, osservando adesso i cani quando vado per strada e vedo le persone col guinzaglio, col loro cane, guardandogli l'espressione riesco a intuire che tipo di vita fanno, cioè se sono allegri, se sono tristi, se sono depressi, se sono particolarmente iperattivi. Bravissima. Perché se uno li osserva, le vedi le espressioni. Bisogna saper leggere esattamente come le persone quando tu le guardi hanno una certa personalità. È la stessa cosa per i cani. E allora, quando un cane viene abbandonato, non è semplicemente uno che se la deve cavare, punto e basta. Soffre, ma soffre tanto. Anche perché, e poi ne parleremo meglio in un'altra puntata, del linguaggio, la cosa che io ho scoperto proprio poco tempo fa, che noi esseri umani comunichiamo solamente per il 7% verbalmente. Esatto. Il restante 93% è diviso in linguaggio paraverbale, cioè i toni di voi, i toni, esatto, che si usano, e non verbale. Esattamente come i gesti, la gestualità, esattamente come comunicano gli animali fra di loro e con noi, e come noi comunichiamo con loro. Esatto, quindi per gli animali conta molto di più quello che facciamo piuttosto che quello che diciamo, e se quello che facciamo è lasciarli alla catena o addirittura abbandonarli, purtroppo non se la cavano ma bene. Ma che poi, a dirla tutta, scusami se ti interrompo Angelo, anche noi comunichiamo di più con quello che facciamo. Difatti un bambino segue i genitori e fa quello che i genitori fanno, non tanto quello che dicono. Seguono io quando esempio. Ero piccola e mia madre mi diceva di non fare una cosa, dicevo sempre: perché tu la fai? Ecco, l'esempio conta più delle parole. Esattamente. Purtroppo però, tornando all'abbandono, io sono rimasta scioccata pochi minuti fa quando ho ricevuto, come si dice, quello che sono le statistiche degli abbandoni. Io credevo che in questi anni, negli ultimi anni, si fosse, con la sensibilizzazione, con le campagne che vengono fatte, speravo e confidavo sul fatto che l'uomo fosse migliorato, che gli esseri umani fossero migliorati, uh-huh, e non ci fossero così tanti abbandoni. Invece, ahimè, questo sondaggio fatto dalla AIDA, che è l'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente, dà un dato allucinante, cioè nel gennaio, febbraio e marzo del 2015 gli abbandoni sono addirittura aumentati rispetto all'anno scorso, cioè sono del 15%, mi dicevi? Del 15%, 40.000 animali rispetto ai 35.000 fra cani e gatti, ma sai, il gatto è già più difficile vedere la statistica dell'abbandono. E drammaticamente, l'anno scorso sono stati in totale abbandonati 120.000 cani. Il picco delle regioni che ha la maglia nera in questa, e mi vergogno a dirlo perché io sono di origini pugliesi, è la Puglia. È la mia amata Puglia. Mia amata anche sarebbe, poi a sorpresa c'è la Lombardia, mm-hmm, altro shock. Lombardia anche perché c'è una concentrazione demografica maggiore. Poi cani. Segue Emilia Romagna, Calabria, Lazio e Toscana, in coda Trentino e Valle d'Aosta. Io vi giuro, cioè io veramente voglio dire una cosa, io mi vergogno, io se fossi in voi mi vergognerei veramente. I cani non li dovete prendere come giocattoli, comprare, regalare ai bambini. Prendere perché vedete quella tardiva di Paris Hilton che ogni volta c'ha un gadget come Chihuahua invece di pigliarsi borsette, orecchini e collane. Io ne approfitterei, giusto per rispetto alle emozioni degli animali, vorrei far ascoltare un pezzo, una musica, che introduce noi allo stato d'animo del cane quando sta male perché viene lasciato solo o abbandonato. Giusto per far capire, no, il mood nel quale si trova un cane. E ci sono cani, così hai detto, 120.000 l'anno. Noi abbiamo in linea un esperto, una persona che con cani abbandonati ci lavora tutti i giorni, ed è Fausto Vighi, che è un educatore cinofilo e lavora anche al Parco Canile di Milano, è uno dei dirigenti del Parco Canile di Milano. Pronto Fausto, sei in linea? Sì, ci sono. Ciao Fausto. Ciao Fausto. Ciao Angelo, ciao Rosita. Ciao. Senti, ma che aria si respira al Parco Canile di Milano dal punto di vista degli abbandoni, dei cani? Cosa sta succedendo? Milano è una realtà abbastanza anomala nel parco di abbandoni in Italia, perché comunque la metropoli è un luogo dove i vaganti sono una rarità. Uh-huh. In ogni caso, anche le tipologie di cani che entrano in canile, con l'avvento di integrazioni, eccetera, eccetera, cambiano e variano. Noi, io per darti qualche numero così della struttura che sì. di cui mi occupo, direi che nell'anno 2014 al Parco Canile di Milano sono entrati ben 290 cani. Accidenti, nonostante si tratti. Quindi cani che provengono da campi nomadi, una piccola parte di abbandoni sicuramente, ma il più sono realtà, diciamo, di degrado di ultima generazione, diciamo. Sì. Ma poi tra l'altro mi sembra che campi nomadi anche. Scusa, cosa vuol dire di degrado di ultima generazione, Fausto? Nel senso che all'interno delle metropoli e soprattutto nell'interland delle grandi città si sta creando un fenomeno di bolla di illegalità, perché comunque Milano è un'area, una zona dove la struttura che gestisco io nella prova, la lotta al randagismo funziona quando le leggi sono applicate, quando le amministrazioni di qualsiasi colore sono sensibili e quindi stanziano fondi adeguati, uh-huh, e quando i cittadini rispondono bene applicando e conoscendo le norme che ci sono. Però tutta quella illegalità che si viene a creare nuove realtà, come per esempio i campi nomadi, insediamenti non autorizzati, danno origine ovviamente a questo tipo di fenomeni. È ovvio che contribuiscono a, non è che ci sono solo questi, sì, chiaramente, certo, però sicuramente. Certo. Però si è alzato il numero dei cani che sono entrati in canile per via del fatto che sono sequestri o abbandoni. Sequestri amministrativi, alcuni sequestri penali, quindi c'è una serie di tipologie di ingressi di canile che sono alternativi al classico randaggio, che invece è, come credo sentirete tra poco, la norma in altro tipo di realtà geografica. Va bene. Senti, ma ci dai un dato anche dei cani che sono stati affidati? Sì, cioè, esatto. Su 290 entrati? In un anno? Certo, questo vi dico che la struttura che gestisco è la prova che si può fare, perché comunque di questi 290 entrati solo 28 sono ancora presenti in struttura. Questo vuol dire che 276, ho tolto gli 8 deceduti, che vabbè, è chiaro, ci stanno, vabbè, certo. Perché è ovvio che la popolazione non è tutta di primo pelo, trattandosi di pelo, esatto, parlando di cane, esatto. Però diciamo che a fronte di questi 290 ingressi ci sono stati 276 adozioni. Ecco, vedi, questo qui è un dato fantastico, perché un attimo fa abbiamo parlato della statistica che drammaticamente di anno in anno vede aumentare il numero di cani che vengono abbandonati. Contemporaneamente nei canili, grazie a Dio, invece, almeno insomma in questo canile, si riesce a controbilanciare, sì, riuscendo a far adottare quasi tutti i cani in canile. Ma io dico, ma non si fa prima a fare un'adozione consapevole, a comprare un cane, a prendersi un cane? E infatti il momento dell'adozione si può, è particolare. Esatto, cioè invece di fare poi tutte ste corse dopo a cercare di rimediare a un problema. Ora mi risulta che in linea ci sia anche Anna Tetro, che mentre Fausto è responsabile del Parco Chiani di Milano, Anna invece è responsabile del Rifugio Fata di Lamezia Terme, quindi ci troviamo in Calabria. A me, mm-hmm, piacerebbe ascoltare anche la sua opinione, perché abbiamo, sai, nord e sud. Esatto. Anna, sei in linea? Sì, ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno. Sto ascoltando, la nostra realtà è diversa rispetto a quella di Milano, perché da un randagismo con numeri notevolmente più alti. Alti. Più alti, sì. Tipo in un anno quanti cani avete... E noi attualmente al Rifugio Fata, che è anche la sede della Lega Nazionale di Lamezia per la difesa, sì, del cane, ospitiamo 120 cani adulti, uh-huh, mentre ci sono ospiti oltre 40 cuccioli oggi. Accidenti. Però domani potrebbero esserci, come è accaduto la scorsa settimana, domenica o qualche giorno fa, 8-10 cuccioli trovati vicino al cancello della struttura. Ecco. Per non parlare di quelli che si trovano nelle strade e le segnalazioni continue che ci arrivano. Scusa, fammi capire, una persona ha un cane che fa dei cuccioli, li prende in massa e, sì, li lascia da soli, sì, davanti alla porta di un canile. Esatto. Beh. Oppure li lascia nelle campagne, quindi, ecco, il cittadino che si trova a passare ci fa la segnalazione. Senti, un'altra cosa. Scusami, scusami, non ti volevo interrompere, ma per capire, sì, e quanti siete riusciti a farne adottare? Allora, noi riusciamo a farne adottare qui in Calabria, diciamo, per essere ottimisti, 60-80 all'anno, viene in mente questa cifra, mentre molti altri li facciamo partire con microchip, seguiti sempre da noi in altre associazioni, sì, sia della Lega, sia associazioni che collaborano con noi. perché al nord ci sono più adozioni. Benissimo. E il dato importante è che qui in Calabria, poi non so, nel sud in generale, proprio il cane è come un soggetto troppo facile da prendere, cioè basta camminare fuori e i bambini e trovi cani, perché il fenomeno cani. Del randagismo è la considerazione Anna. Purtroppo non è come dire in empatia con noi, con gli esseri umani, non è un arricchimento. Siccome conosco il lavoro del Rifugio Fata, ringrazio tanto, perché sono proprio un polo culturale giù, quindi grazie Anna del tuo intervento, grazie infinite. Grazie a voi. Grazie anche a Fausto, e soprattutto riflettiamoci, perché vediamo cosa possiamo fare, insomma. Anche questo è il proposito di questa nostra programma. Benissimo. No? Vedremo tra poco, ci vediamo con le sterilizzazioni, che sono un punto a favore dei canili, ma purtroppo abusati. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. Chiedimi se sono felice, al mondo della prospettiva non solo del cane, ovviamente dell'animale, di qualunque tipo di animale. Esatto. E adesso tu non eri lì che stavi giocando con tutte le tue, fai la no, voce, introduci la rubrica di adesso, che è fondamentale. È fondamentale per quello che abbiamo detto, no? Quindi esatto. Uno abbandona il cane. Allora, benvenuti alla nostra rubrica su poste di saggezza. Perché, cara Rosetta, le pillole le abbiamo finite. Le abbiamo finite e quindi un bel suppostone per chi decide di regalare il cane a Natale per poi abbandonarlo. Sì, oppure a compleanno, oppure perché fa moda. Perché fa moda. C'erano periodi che c'erano, quando c'era la carica dei 101, vedevi tutti i dalmati, tutti andavano a comprare il dalmata. Poi adesso ultimamente la moda è il chihuahua, quindi tutti coi chihuahua. Poi, non conoscono le attitudini di ogni razza, perché ogni cane, ogni razza c'ha delle attitudini diverse. Poi, il discorso è fare un'adozione che, anziché consapevole, diventa leggera. Ma sì, ma il mio bambino vuole il cane, adesso vado lì e glielo prendo. Non siamo d'accordo, perché io lo porterò fuori, poi mia moglie invece non vuole sapere, lo adotto ugualmente. Poi fa la prima pisciata in cucina e la moglie dice: vai fuori tu e il cane. Perché tu, insomma, fa bene mandarlo fuori, cioè, il cane no, ovviamente. Il cane no, perché purtroppo, insomma, i cani diventano poi delle valigie, no? Che vanno in una casa, poi vanno nell'altra, poi rifiniscono in canile, poi dal canile vengono presi da un altro che adotta in modo leggero, che poi magari poi di nuovo lo riabbandona. È una cosa. Sì, la superficialità dell'uomo. Noi in realtà dovremmo essere quelli che dovrebbero accudire, prendersi cura delle realtà, quelle più fragili, e invece no. Siamo i peggio. Senti, ma vogliamo dare dei primati fantastici. Vogliamo dare un consiglio su a chi vuole, decide di adottare un cane, no? Quindi i canili, perfetto, soprattutto se ci sono dei bravi educatori cinofili, quelli ti prendono il tuo stile di vita e ti dicono: guarda, i cani che andrebbero bene per te sono questi. Perché dipende anche dall'età. Una signora anziana è meglio che non prenda un cucciolo, perché non soltanto per quello, perché i cani, sai, che hanno attitudini differenti. Certo. Cioè, non ti puoi aspettare da un beagle lo stesso comportamento che ha un barboncino o un mastino napoletana, no? Per certo. Dirti. Poi in canile la difficoltà cos'è? Che ci sono anche dei meticci, allora ci vuole un occhio esperto che capisca che tipo di personalità ha quel cane, si deve adattare allo stile di vita della persona per evitare un rientro. Sì, non solo. Poi oggi, quando tu compri i cani, tu vai dal veterinario, solitamente il veterinario ti dice: è femmina, guardi, è meglio sterilizzarla. Ma ti dirò di più, ultimamente mi dicono anche: bisogna sterilizzarli prima del primo calore. Io, ecco, vedi, che non so né leggere né scrivere, ho sempre detto: ma se il Padre Eterno ci ha fatto così e non ho una malattia, perché devo sterilizzare il mio cane? Ma allora, aspetta un attimo, perché il discorso della sterilizzazione per i canili è importante. Perché? Perché quando dei cani meticci vengono sterilizzati, si evita che questi cani facciano dei cuccioli che poi, hai sentito prima la mezza, sì, certo, vengono lasciati nelle campagne. Quindi effettivamente le campagne di sterilizzazione per questo tipo di cani, certo, anche se non è il massimo, ma per il cane stesso, però purtroppo, cioè però per fortuna, aiutano un sacco di cani a non essere abbandonati, torturati, insomma, a liberare, sì, sì, anche o rimanere incinta. Io mi ricordo, esatto, il canile di Palazzolo qui in Lombardia, che aveva diminuito proprio i cani residenti in canile grazie alle campagne di sterilizzazione. Però dicevi tu, giustamente, io invece parlavo della realtà di singolo individuo, di privato, che va a acquistare un cane in un che negozio, che prende di default, gli fa la sterilizzazione. Ora la prima cosa che dicono: vanno sterilizzati, è una moda. E abbiamo al telefono, ovviamente, per sentire che cosa ne pensa un esperto, Barbara Gallicchio, veterinaria. Barbara, ci sei? Ciao. Ciao, ciao Barbara. Ho detto giusto? Hai detto giusto. Chiaramente dobbiamo fare il distinguo che avete già sottolineato giustamente tra la popolazione dei cani senza padrone che stanno in un canile, mm-hmm. dove ovviamente tenerli interi è impossibile, certo. anche per questioni proprio di gestionali pratiche. Certo. E c'è anche una legge. Abbiamo la 281/91, poi revisionata di recente, che comunque dice che i cani e i gatti che provengono da rifugi o canili devono essere dati in adozione sterilizzati. Certo. Poi se il canile non ha i mezzi per affrontare tutte queste sterilizzazioni, che comunque sono un costo, il proprietario si impegna a ottemperare a questa alla sterilizzazione, perché purtroppo sì. ci sono dei proprietari che prende delle persone che prendono il cane dal canile, lo portano a casa, gli fanno fare i cuccioli e poi di questi cuccioli non si sa che cosa che fine faccia, insomma. Sì, esatto, questo sarebbe diciamo il timore del legislatore, esatto. nel momento certo. in cui ecco. È vero però anche che in questo caso noi penalizziamo molte volte persone che sono quelle persone responsabili che questa cosa proprio non la farebbero, no? Sì, cioè, vero. Le persone che adottano un cane dal canile, fanno le cose per bene, si impegnano a sterilizzarla, la sterilizzano, che sono anche quelli che magari semplicemente potevano gestire la situazione e certamente non avrebbero fatto la cosa nelle campagne. Avere il cane intero, non sterilizzato, pur non facendolo accoppiare. Esatto. Lo so, però sai come si dice. Le persone irresponsabili non le becchi mai. Esatto, sai come si dice, no? Quando piove sui buoni e sui cattivi. Purtroppo a volte ci rimettono anche le persone che avrebbero la giusta responsabilità. Esatto. Mentre invece per i privati... Allora, per i privati bisogna dire che negli ultimi anni stanno crescendo delle statistiche che mettono in evidenza che sterilizzare i cani da giovani, sia maschi che femmine, comporta delle conseguenze di tipo sia sanitario, clinico che comportamentale, e queste conseguenze sono spesso negative. Quindi non dobbiamo pensare che sia una cosa buona per tutti. Ogni caso dovrà essere valutato nella intimità del rapporto fra il proprietario e il proprio veterinario, date le circostanze, le condizioni di vita, il contesto ambientale. Per esempio, ho una femmina, vivo in una grande casa di campagna senza recinzioni. Come faccio a gestire il calore di questa cagna? Magari c'ho pure due cani maschi. Sì. Allora magari questa cagna qui dovrà essere sterilizzata. Ma il primo calore glielo facciamo fare, perché il primo calore le permette di sviluppare i comportamenti femminili appieno. Ma non solo serve per lo sviluppo fisico proprio, eh. Mm-hmm. Ah, certo, ma scusami Barbara, ma allora perché ultimamente invece è dilagata? È stata questa campagna nata in Australia, che poi si è diffusa negli Stati Uniti, sulla sterilizzazione sempre più precoce. Trovando che c'era una ripresa molto facile, diciamo, no? I cuccioli più sono piccoli, più sono, come dire, elastici, no? Plastici, per cui si sembrano traumatizzarsi di meno, eccetera. Però poi c'è anche un alto rischio di rischi, diciamo, collaterali alle anestesie e interventi nei cuccioli piccoli, in effetti. Poi se guardi le grosse statistiche ti spaventi. Quindi la moda nata in Australia è quella della sterilizzazione precoce, cioè vuol dire prima del primo calore. Per no, la femmina vuol dire prima del terzo mese. Prima del terzo mese. Detta sterilizzazione pediatrica. No, che vabbè. Già il nome è brutto da sentire. Ma no, ma è allucinante. E quindi Barbara, tu dicevi che questo impedisce al cucciolo di strutturarsi fisicamente come si deve, ma anche psichicamente? Sì, nella femmina c'è anche quest'altro problema, e cioè che gli estrogeni entrano in contatto con il cervello, diciamo, sì. solo al primo calore. Quindi se io voglio avere una mente femminile, devo permettere il completamento dello sviluppo dei processi mentali, che avviene solo con l'adolescenza. Senti, ci sta anche il fatto che magari qualche privato sterilizzi il cane, lo prende, lo sterilizzi perché non ha voglia, nessuna voglia di star dietro a controllare i calori del cane, che magari sono fastidiosi in casa? Ma sicuro, certo, ma c'è un sacco di gente che non se la sente, non vuole. Aspetta, due paroline per chi dice il mio cane è aggressivo e quindi lo sterilizzo? Esatto. Questo è un altro problema che dovrà essere discusso sempre con attenzione, possibilmente con esperti, veterinari esperti in comportamento, perché l'aggressività può peggiorare. Le femmine sterilizzate prima del primo calore sono sovrarappresentate nella aggressività in casa. Vedi? Ecco, quindi guarda Barbara, intanto ti ringrazio perché sei veramente, come si dice, credo una voce abbastanza fuori dal coro. Sicuramente mi auguro ci siano tanti veterinari esperti in materia come te che abbiano invece, che abbiano intanto anche il coraggio di dire le cose come stanno veramente, perché t'assicuro, io ho cani, ho preso cagnolini randagi, li ho provati in campagna, qualunque tipo di animale, appena andavo al veterinario la prima cosa è sterilizzavano, perché così non gli viene il tumore alle mammelle, non gli viene il tumore all'utero. Nessuno ti spiega perché. Io non so se gli altri veterinari non dicono niente perché non sono così preparati, oppure perché è conveniente, perché no, purtroppo queste domande mi vengono. Adesso ultimamente cominciano a uscire dei lavori statistici abbastanza significativi, per cui laddove prima c'è stata proprio una campagna nei paesi occidentali sulla sterilizzazione, sui vantaggi, sulle mammelle, eccetera. Sì. E certamente la cagna che è inerte dal punto di vista sessuale, per esempio, l'infezione dell'utero non ce l'avrà mai. Certo. La famosa piometra, che è frequente nella cagna matura. Certo. Quindi ci sono dei vantaggi, voglio dire, non è che ci sono solo svantaggi nella sterilizzazione. Se la cagna matura, per esempio, ha spesso il calore, eccetera, può essere che si predisponga allo sviluppo dell'infezione, allora io la sterilizzo, l'infezione non le viene, va tutto in quiescenza, anche le mammelle rimangono piccole. Ci sono dei vantaggi, voglio dire, potrebbe esserci persino il rischio di avere una linea di cagne dove il tumore è sensibile agli estrogeni e i calori ripetuti peggiorano il rischio. Allora aspetta Barbara, diamo un attimo un break e poi ritorniamo per chiudere con questa cosa qui che stai dicendo, ok? Va bene. Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane. E sempre con Chiedimi se sono felice. Volevamo concludere un attimo, abbiamo parlato fino adesso dell'importanza o no e in quali casi della sterilizzazione dei cani femmine e maschi con Barbara Gallicchio, veterinario comportamentalista, e ci ha spiegato veramente bene, forse per la prima volta io sono riuscita a sentire bene quando e come, ovviamente nei canili è più opportuno per salvaguardare anche questi cani che non vengano, non facciano altri cuccioli abbandonati, mentre dai privati è sconsigliabile, perché se il cane è sano non è vero che evita un tumore alle mammelle piuttosto che all'utero, ma ne può causare altri. Quindi no alla sterilizzazione di default. Esatto. Hai un cane, lo sterilizziamo. Non è vero nemmeno che diminuisce l'aggressività, in alcuni casi l'aumenta. Quindi di base torniamo a quello che ho sempre pensato io, insomma, che se il padre eterno o chi per lui ci ha fatto così e siamo sani, è perché togliere un organo, giusto Barbara? Sì, ogni caso va discusso singolarmente. Esatto. A seconda delle esigenze, del contesto. Cioè, per esempio, ci sono cani che dopo il calore hanno una pseudogravidanza aggressiva. Cioè Barbara? Pazzetti, fanno tane sotto il letto, non fanno avvicinare nessuno, eccetera. Ecco, per esempio, quella lì potrebbe essere una candidata, no? Sì. Ci sono delle circostanze nelle quindi pseudogravidanza aggressiva, nel senso che il cane va lì, si scava la cuccia come per partorire lì dentro, in realtà non è gravida, e poi difende quello che ci ha messo lì dentro, cioè diventa aggressiva con i membri della famiglia. Esatto. Sì, ma insomma alla fine della fiera non deve essere di default che quando è un cucciolo va dal veterinario a fargli fare le cose. Esatto. Non vogliamo che sia di default, vogliamo che sia una discussione del singolo individuo. Il singolo individuo va trattato come tale, quindi con le esigenze, con le esigenze del proprietario, no, anche perché è un bravo e responsabile medico. Senti, grazie mille del tuo tempo, capiterà magari che ti chiameremo ancora. Grazie a voi, va bene, un bacione. Grazie. Arrivederci, ciao. Oh. Hai capito? Io ho capito, adesso voglio fare una classifichina. Ma va? Una classifichina, cioè? China. Una bella classifichina per far capire così, proprio veloce. Come i 10 comandamenti, insomma, che nessuno rispetta, ovviamente. Di che parliamo? Parliamo delle 10 cose da non fare con il cane in vacanza. Visto che siamo a luglio, la prima settimana di luglio, assolutamente dobbiamo diamogli questo decalogo. Perché io vedo delle persone che durante il periodo scolastico e l'anno usano, trattano il cane in un modo, si parte in vacanza Dai, ce ne sono tante di cose da dire. Dai, dai, sentiamo un po'. Yo! Yo! Yo! E tu, eh? Passiamo alla classifica delle 10 cose da non fare in vacanza. Dunque, partiamo con... Credo, voglio dire, insomma, da dove partiamo? No, sapete perché vi dico così? Perché in regia mi guardano. Perché dovete sapere che il dottor Vaira prima mi ha detto: facciamo la classifica dalla decima alla prima di importanza, e l'abbiamo fatta tutte con gli asterischi. Ora, secondo voi, dalla decima alla prima? Io perché poi dopo, quando finisce il programma, mi bacchetta. Vabbè, ma diamo un compito ai nostri ascoltatori, sì. Ordineranno loro in termini di importanza. Allora, parto random io con la prima cosa che mi fa orrore: mai lasciare il cane in macchina. Secondo, mai lasciare il cane senza acqua da bere a disposizione, perché come noi abbiamo più sete, e come quando il telegiornale dice bevete, bevete, bevete per affrontare questo caldo e non avete insolazione, il cane è la stessa identica cosa, poi non è che lui... sempre, a maggior ragione d'estate. Mai forzare il cane a venire in spiaggia con te, se non c'ha voglia, non c'ha voglia. No, ma non solo, i cani si stressano, stanno male, allora li lasci a casa. E se eventualmente il cane volesse venire in spiaggia, non lasciarcelo 12 ore, mentre noi stiamo lì come delle lucertole a pigliare il sole, magari avere un ombrellone e farlo stare all'ombra. Mai fare un viaggio lungo senza fermarsi. Mai perdere i rituali quotidiani. I rituali quotidiani, beh, sono importantissimi, perché se il cane va in un posto che non conosce, ha necessità di avere i suoi riferimenti. La copertina, per esempio, cosa faccio al mattino, a che ora do la colazione, a che ora facciamo la cena, quando si esce in passeggiata. Giocare con il cane non va trascurato, insomma. Mai trascinare il cane in acqua. E poi l'altra cosa è anche tenere il cane al guinzaglio mentre sei in acqua. Sai una scena che io ho visto? Due persone che parlano, cucciolo di Labrador legato al guinzaglio. Questa persona non si era accorta che il cane stava per, cioè venivano delle onde ed era in difficoltà a respirare, perché si rammontavano nel cane. Sembra fantastico. Io analizzerei la mente di certe persone. E visto che d'estate ci sono un sacco di sagre popolari, di feste, Ferragosto, fuochi d'artificio, le cose, mai portare i cani dove ci sono sagre popolari, rumori troppo assordanti, la che musica poi mai alta. Ci sono dei cani che lì si trovano al loro agio, ma sono pochi. E allora, con questa fantastica classifica delle 10 cose da non fare quando si va in vacanza con il cane, passiamo ad un momento particolare. È arrivato il momento del Doberman. Senti, me l'ha detto mio cugino, perché mio cugino mi ha detto che il Doberman morde i proprietari perché gli scoppia il cervello nella scatola cranica. Adesso, detto così, sembra che ci stai prendendo tutti quanti in giro, però io sono cresciuta, quando ero piccola volevo il cane, una di quelle bambine che voleva il cane. No, il Doberman no, perché a forza di fare gli incroci l'uomo gli ha fatto la scatola cranica troppo piccola, e a un certo punto il cervello, crescendo, tocca sulle pareti del cranio, e per quelli Doberman mordono i padroni. E chi te l'ha detto? Mio cugino. Perché c'è sempre il cugino che le sa queste cose, ti dice no al Doberman perché gli scoppia. In realtà me l'ha detto tuo cugino, perché io non ho cugini. Mio così. Cugino. Te l'ha detto mio cugino. Me l'ha detto tuo cugino. No, ma pensa, allora, cioè, voglio chiarire questa cosa qua del Doberman. È vero, alcuni Doberman hanno morso i proprietari. Succede ad alcuni cani. Questa cosa qui normalmente viene iscritta in una patologia che si chiama disturbo competitivo di relazione, ed è un'altra cosa. Mentre c'è un cane che ha davvero questo problema, lo sapevi? No. Si tratta del Cavalier King Charles Spaniel, che a causa di incroci purtroppo fatti da allevatori senza scrupoli è diventato un ipertipo. Effettivamente la scatola cranica comprime il cervello, e questo dà dei disastri che non sono l'aggressività, ma sono dei dolori pazzeschi, talmente forti che alcuni di questi cani a un certo punto devono essere soppressi. Vedi che dove mette le mani l'uomo. Purtroppo ne combina. Una più di Bertoldo. Allora, però, visto che siamo in chiusura della nostra puntata, io vorrei darvi un po' di consigli, per esempio di libri da leggere a chi piacciono gli animali, a chi piacciono i cani, perché se seguite questo programma sicuramente siete portati, o anche solo curiosi, volete saperne di più. Un libro veramente molto bello è La vita emozionale degli animali di Mark Bekoff, edizioni Hakiana. Sì, visto che era un po' in difficoltà a leggerlo, esatto, edizione Hakiana. Tu l'hai letto, vero? Bellissimo libro. Tra l'altro, Mark Bekoff è stato è lo scienziato maestro? Che ho avuto, no, ho avuto l'onore che scrivesse la prefazione al mio libro. E poi l'altro libro invece è veramente molto interessante, è Tenersi per zampa fino alla fine di Stefano Cattinelli, edizione Amrita. Bellissimo anche questo, veramente un gran libro. Ciao a tutti da Angelo Vaira e Rosita Celentano.